Gli amici dei miei amici sono miei amici. Lo sapevate che il sole e la luna non sono sempre stati nel cielo? Un tempo vivevano insieme come marito e moglie in Africa, in una casa grande, grandissima, in cima alla collina. Erano una coppia molto ospitale e ricevevano sempre tanti amici. Invitavano l'albero del tè e quello arrivava con i cespugli suoi cugini. Invitavano la roccia e lei si presentava con i suoi figliastri, i ciottoli. La luna invitava a pranzo le stelle sue figlie e loro portavano anche gli zii, i pianeti. Le feste nella casa sulla collina diventarono famose in tutto il mondo. «Luna», disse il sole un mattino, «non abbiamo mai invitato la rugiada. Sarebbe il momento di farlo». E così la rugiada del mattino venne invitata a pranzo. «Potrei bagnare il vostro prato», obiettò la rugiada. «Oh, non preoccuparti di questo. Se vuoi, porta pure con te amici e parenti». La rugiada arrivò puntuale all'ora di pranzo, insieme a sua cugina la pioggia, che si riversò su tutta la collina, circondandola d'acqua. «Spero che non vi dispiaccia se ho portato i miei cugini, gli stagni», disse la pioggia. «È un piacere avervi qui», rispose il sole gentilmente, mentre gli stagni e le pozze si spandevano per il giardino. «Spero che non vi dispiaccia», continuarono gli stagni, «se sono venuti con noi i nostri cugini laghi». «Anzi, è un piacere», disse la luna, mentre laghi grigi e laghi blu, piccoli e grandi, allagavano la casa. «Spero che non vi dispiaccia», esclamarono i laghi, «se ci siamo permessi di portare con noi anche i nostri amici fiumi». «Felice di conoscervi», disse il sole. E intanto fiumi impetuosi, fiumi lenti, fiumi ampi e sinuosi inondavano le scale. «Spero solo che troviate tutti posto a sedere». «Speriamo che non le dispiaccia», fecero i fiumi, «se i nostri cugini estuari sono venuti con noi». «È stato molto gentile da parte vostra». «Venire a trovarci», dissero il sole e la luna, scambiandosi uno sguardo preoccupato. «Fate come a casa vostra». Dopo un po', gli ospiti avevano invaso il pian terreno, le scale e i piani superiori, e il sole e la luna si trovarono sul tetto, con l'acqua che lambiva i loro piedi. «Spero che non vi dispiaccia», dissero gli estuari, «se i nostri cugini oceani sono venuti con noi». Fece il sole. Disse la luna. E si trovarono a galleggiare nel cielo. Da allora il sole e la luna abitano lassù e guardano i fiumi e gli oceani che hanno riempito la loro casa. Dicono che un giorno, quando la festa sarà finita, torneranno giù.